309. Braccioline alla contadina. Per me, che si ribellano al mio gusto, le lascio mangiare ai contadini. Ma poiché ad altri potrebbero non dispiacere, ve le descrivo. Preparate le braccioline con carne magra di vitella battuta bene, ungetele con l'olio e conditele con poco sale e pepe. Fate un composto di olive in salamoia, capperi strizzati dall'aceto e un'acciuga, tritando il tutto ben fine. Lasciatelo così semplice, oppure aggiungete un rosso d'uovo e un pizzico di parmigiano. Riempitene le braccioline, legatele e quindi cuocetele con burro e sugo di pomodoro, oppure in un soffritto di cipolla.